Salva Danaio di Deborah Rosciani. Maximilian, ci siamo adeguati anche noi allo spirito natalizio, al clima natalizio. Maximilian Cellino, il mio collega che naturalmente come sempre mi aiuterà oggi a condurre la puntata che Salva Danaio dedica ai mutui, era rimasto un po' stupefatto dalla scelta di rinnovo della sigla. In realtà gli affezionati ascoltatori di Salva Danaio sono benissimo che in questo periodo gli diamo una rinfrescata, no? La nostra musichetta iniziale. Buongiorno a tutti, da Deborah Rosciani. Maximilian, già che ti ho introdotto, salutiamo con te anche i nostri ascoltatori. Questa è l'ultima puntata del 2008, qui però con te dobbiamo fare questa promessa solenne, è l'ultima puntata di Salva Danaio dedicata ai mutui, poi lasciamo in pace i nostri ascoltatori, li lasciamo trascorrere delle feste tranquille, speriamo, a meno che non ci siano delle novità. Solenne. È vero che noi lasciamo in pace gli ascoltatori, però mi sa che sono gli ascoltatori che probabilmente non ce ne attribuiamo un po' la colpa, li abbiamo sfiniti quest'anno con il tema mutui. Devo dire che però l'auspicio è che abbiamo anche fatto un lavoro utile, perché siamo così, abbiamo sempre costantemente avuto questa rincorsa dietro alle novità che in questo campo si sono susseguite non solo nell'ultimo anno ma almeno da 2 anni a questa parte. Da 2 anni stanno cambiando tante cose e non abbiamo ancora finito, perché ci manca l'ultimo tassello, che potrebbe anche non essere l'ultimo, l'intervento del governo che mira a proteggere le rate da nuovi rincari dei tassi, circostanza che comunque alla luce degli ultimi dati sembra al momento esclusa, scongiurata, però a seconda dei calcoli, a seconda del tipo di mutuo sottoscritto, magari qualcuno ha ancora un tasso appunto al di sopra di questa soglia. E il tema di cui affrontiamo questa mattina, vogliamo fare un punto di fine anno sull'argomento mutui, riassumendo tutte le opzioni che abbiamo per alleggerire la rata, riassumendo anche le iniziative informative che sono in corso e che hanno l'obiettivo di permetterci di affrontare la stipula di un mutuo nuovo, perché noi parliamo sempre di rinegoziazione, ma ci sono molte famiglie che sono in procinto di acquistarla la casa, anche se il mercato immobiliare è rallentato, anche se ci sono tante circostanze che magari adesso hanno un po' limitato anche, no, le compravendite. In ogni caso qualche famiglia che questa scelta la sta compiendo c'è, quindi si sta accingendo a stipulare il mutuo. Quindi un punto della situazione, mutui a 360 gradi questa mattina a Salva Danaio con Maximilian Cellino, che vi ho già presentato, Massimo Roccia, direttore centrale ABI e segretario del consorzio Patti Chiari, che in accordo con le associazioni dei consumatori ha pubblicato di recente, elaborato e pubblicato sul sito di Patti Chiari la guida Cambio Mutuo, come gestire al meglio il tuo mutuo. Roccia, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie di essere con noi. Anche a Paolo Piccoli, presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, notai da 2 anni continuamente chiamati in causa in tutte le vicende legislative che hanno riguardato i mutui, notai che in tutta Italia stanno portando avanti iniziative di consulenza gratuita, non riguardano queste consulenze solamente l'ambito mutuo e casa, però noi stamattina su questo ci soffermeremo. Piccoli, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi, 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Il centralino è già partito all'impazzata. Maximilian prima mi diceva: stamattina l'Euribor ce l'ho anch'io, in questo momento lampeggia sulle nostre agenzie, abbiamo ancora un deciso calo delle tensioni sul mercato interbancario, si tratta del 50° di seguito da massimi assoluti, quando l'Euribor a 3 mesi, sempre quella scadenza in genere ricordiamo, era arrivato al 5,39%. Questa mattina la scadenza a 3 mesi è stata fissata al 3,12%, Maximilian, quindi mi sembra che questa tendenza virtuosa stia continuando. Il tema ancora è: tutte le famiglie che hanno un mutuo a tasso variabile ne stanno registrando i benefici o ancora non è possibile testarli concretamente? Allora, alcuni stanno già registrando dei benefici, altre famiglie che hanno il tasso variabile non hanno dei benefici concreti dalle rate e ovviamente, da giudicare dalle mail, dalle lettere che riceviamo, cominciano a protestare. Però qui bisogna fare anche abbastanza chiarezza: il meccanismo di indicizzazione dei mutui, e lo ripeto ancora una volta, non è immediato. Spesso, per esempio, per la rata che avete pagato a dicembre, può darsi che il parametro di riferimento fosse stato l'Euribor, uno degli Euribor di novembre magari, o una media degli Euribor dei 3 mesi precedenti. In questo caso i tassi erano ancora ai massimi, quindi i benefici si avranno soltanto nei prossimi mesi. Va detto che questo adeguamento graduale avviene anche quando i tassi salgono, non soltanto quando i tassi scendono. Occorrerà avere pazienza per qualcuno, chi per esempio ha i mutui indicizzati, ha un solo valore all'ultimo del mese precedente, questo calo si è già visto, per altri si vedrà più in là, si vedrà probabilmente nei primi mesi del 2009, ma è ovvio che si vedrà perché i tassi, ripetevamo prima, sono scesi da oltre il 5% fino al 3,12-3,13% il 3 mesi e 2,84% il tasso a un mese. Tra l'altro volevo anche ricordare che oggi la Banca Centrale Europea potrebbe tagliare il tasso sui depositi, non sono i tassi di riferimento ufficiali, è un altro parametro e anche in questo caso è una misura che dovrebbe avere, verrà presa probabilmente nel tardo pomeriggio, l'obiettivo di invogliare le banche a prestarsi denaro tra di loro, quindi ancora una volta indurre alla riduzione la tensione appunto tra i tassi interbancari. Speriamo che anche questa iniziativa possa avere appunto questo effetto. La borsa rapidamente, prima di cominciare la nostra chiacchierata anche con i nostri altri due ospiti, quadro contrastato in Europa questa mattina, lo dicevamo anche nel giornale radio, Parigi, la borsa di Parigi è in calo dello 0,8%, ancora fortissimi ribassi dei titoli bancari, in particolar modo BNP Paribas, Francoforte positiva, nonostante l'IFO, la fiducia tedesca che è andata ai minimi da una ventina d'anni a questa parte, Londra meno 0,13%, qua su Londra occhi puntati soprattutto sul calo dirompente della sterlina, che almeno avrà il beneficio di chi potrà fare un po' di vacanza nel Regno Unito in questo periodo di consentire a queste persone un bel po' di shopping. S&P MIBA Piazza Affari meno 0,02%, tra l'altro stesse indicazioni anche sul dollaro che stamattina è scivolato a 1,4719, sull'euro trend inarrestabile che ovviamente porta la moneta unica europea ad essere davvero la protagonista sui mercati valutari da qualche tempo a questa parte. Terna più 4,35, migliori titoli a Piazza Affari, Fastweb più 3,76, Snam Rete Gas più 3,35, più 3 anche per Buzzi Unicem, A2A, in ribasso invece Prismian e poi i titoli del settore petrolifero, Saipem meno 2,89, Eni meno 1,54%, la nostra scheda sui mutui. Calano i tassi, quelli della Federal Reserve, che ha tagliato il costo del denaro ai minimi di sempre, e quelli dei mutui, che finalmente cominciano a scendere dai picchi di ottobre, quando avevano raggiunto quota 5,76%. A novembre, riporta il bollettino mensile ABI, sono scesi al 5,5%, il livello più basso da giugno 2007. E ci si attende che scendano ancora, visto l'Euribor in caduta libera. Quello a tre mesi ha raggiunto ieri quota 3,16%, toccando così i minimi dal 28 luglio del 2006. E anche la BCE si prepara ad un nuovo taglio, sebbene non così cospicuo come quello della Fed. Buone notizie, insomma, per tutti coloro che hanno stipulato un mutuo a tasso variabile, che da gennaio vedranno ridursi il peso della rata per effetto del naturale calo dei tassi. Senza bisogno, quindi, dell'aiuto del tetto del 4% fissato dal governo, che dopo i primi mesi potrebbe rivelarsi fortunatamente inutile. Restano dunque dei dubbi sulla sua entrata in vigore. E buone notizie anche per chi decide oggi di chiedere un finanziamento. Attenzione però, se la scelta del tasso variabile appare senz'altro più conveniente, bisogna fare i conti, come insegna l'esperienza di questi ultimi anni, con un possibile nuovo rialzo dei tassi. Attenzione insomma a non indebitarsi al limite delle proprie possibilità reddituali. Un giusto rapporto rata-reddito non dovrebbe superare il 30%, soglia purtroppo superata in passato in molti casi e che ha portato all'attuale aumento delle sofferenze sui pagamenti delle rate. La crisi ha poi avuto un altro effetto, come rivelano i dati dell'osservatorio credito al dettaglio, realizzato da Assofin CRIF Prometeia. Rispetto al 2007, il bilancio dei mutui in essere concessi alle famiglie italiane sarà inferiore quest'anno del 10%. Per una ripresa della domanda, come per una ripresa dell'economia, bisognerà aspettare ancora qualche anno. 800 24 0024, sono già pronti al nostro numero verde Giorgio da Verona e Rocco da Modena, però volevo partire con un messaggio che invece è arrivato al 349 238 6666. Ci scrive Paolo da Milano: ho un mutuo variabile stipulato nel 2004 con uno spread all'1,70%, ho sempre cercato di farmelo ridurre senza esito, oggi purtroppo mi rispondono che il mutuo è cartolarizzato e non è più interesse della banca evidentemente rinegoziarlo, sono costretto a cambiare banca per avere uno spread più conveniente e perdere gli interessi sin qui versati. Massimo Roccia, il sistema bancario ha fatto tanto lavoro in questi anni, in questi due anni, per venire incontro ai clienti in difficoltà, o che comunque ritenevano di avere delle condizioni contrattuali non in linea con il mercato, eppure ancora ci ritroviamo con qualche isola non troppo felice, come il caso del nostro ascoltatore, che si trova ad affrontare, come dire, una situazione che noi pensavamo non dovesse più essere, come dire, presente, no? Nella casistica, casi che potevano essere giustificabili un anno fa, un anno e mezzo fa, ma adesso non più. Ancora questa storia del mutuo cartolarizzato, le banche ci propongono. Lo so che lei ha l'onestà intellettuale per poter ammettere che è del tutto ingiustificato quello che la banca sostiene nei confronti di Paolo. Non credo che la banca stia negando, diciamo così, l'operazione. Credo che la banca abbia trasparentemente comunicato al cliente che è più complesso smontare un mutuo cartolarizzato perché la banca non ce l'ha più sui suoi libri, ma ce l'ha sui libri del veicolo, e secondo, perché la cartolarizzazione, che ha portato il grande beneficio degli spread attuali, che sono la metà di quelli di 3 anni fa, ha la complicazione di aver trasferito la posizione. Quindi credo che il cliente possa, se fa fatica, diciamo così, a convincere la banca su questa operazione, più utilmente fare la portabilità e andare a prendersi uno 0,70 di spread da un'altra banca. No, tra l'altro, come fa a non perdere gli interessi Paolo da Milano con la surroga? No, questo credo sia non ha capito bene il cliente. Lui non perde assolutamente nulla. Beh, se fa una la banca fa il calcolo del debito residuo all'epoca in cui cede il contratto, se fa la portabilità, e quindi lui non perde assolutamente nulla. Si mette, se fa la surroga, un ammortamento diverso. Deve essere molto attenta a non fare una sostituzione, perché in questo caso invece sottoscrivo un mutuo nuovo, e se è ancora a tasso variabile è chiaro che riparte con i mutui, con i tassi di interesse dall'inizio, il piano di ammortamento. Roccia, però. Roccia. Sì, senz'altro, ma credo che questo sia qualcosa che è trasparentemente indicato dai clienti quando prospettano l'operazione nuova, e quindi lui potrà vedere la differenza tra un mutuo di sostituzione e una surroga. Va bene, Paolo, se ha qualche dubbio ci scriva, il blog di Maximiliano Ancellino è frequentatissimo. No, non vuoi. Non è attivo? Non è attivo. Scusami, no, invece è il tuo indirizzo di posta elettronica. Il mio indirizzo di posta elettronica che è abbastanza rovente in questi momenti. Come quello di Salvadanaio, tra l'altro. Paolo Piccoli, presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, eccoci anche a lei. Abbiamo interpellato il presidente Piccoli perché il Consiglio Nazionale del Notariato, non è la prima volta che lo fa, ma sta portando avanti la sua iniziativa di consulenza gratuita da parte di almeno 1000 notai spalmati su tutto il territorio italiano, per così fornire almeno l'informativa di base che è necessario avere quando si tratta di approcciarsi alla compravendita della propria abitazione. Prima di comprare casa, notaio, e stipulare un mutuo, cosa dobbiamo chiedere in via preventiva ad un notaio? In che cosa può aiutarci? Anche nell'ambito del mutuo può aiutarci, adesso prescindere dalla convenienza del tasso che dobbiamo scegliere, però anche su quello può darci una mano? Sì, e intanto questa iniziativa si inserisce in una iniziativa di carattere più generale. Noi ci siamo confrontati a lungo con l'ABI, con Roccia ci siamo parlati decine di volte per trovare, come dire, delle soluzioni comuni e anche utili ai clienti. Abbiamo fatto dei confronti con l'Associazione dei Consumatori, addirittura pubblicando una guida mutuo informato nella quale spieghiamo che differenze ci sono tra la rinegoziazione, tra il mutuo di surrogazione e il mutuo di sostituzione, e da questo punto di vista le rispondo subito, perché il cliente vede immediatamente da queste istruzioni e anche dai colloqui con noi dove ha delle spese o dove non le ha, e questo è già un fatto essenziale, nel senso che una rinegoziazione con la sua banca non comporta nessuna spesa per il cliente, il mutuo di sostituzione comporta evidentemente le spese pari alla costituzione dell'ipoteca e del mutuo. È un contratto ex novo, sì. Ecco, però voglio dire, il colloquio con il notaio o con un professionista, perché ci sono anche altre categorie che stanno attivando iniziative di questo genere, è sempre importante, perché quando si va ad una contrattazione, in generale con un contraente forte, avere alcune informazioni di base è sempre meglio che non averle per niente. Le faccio un esempio, mi parlavano questa mattina di una vicenda che veramente mi ha colpito. Un istituto bancario di cui non dico nulla, poi ne parlerò con Roccia. Mi prude la lingua, esatto, come vorrei saperlo. Ne parlo con Roccia privatamente. Allora, ha fatto un contratto con un cliente con un tasso normalissimo e poi impone una assicurazione per il caso di morte del mutuatario, eccetera, di ben 12.000 euro, e non lo inserisce nell'indicatore sintetico di costo, che, come lei sa, il vecchio TAEG è quello che permette permette di capire se sostanzialmente il costo reale del mutuo, certo, è in linea o meno con il mercato. Però tanto per capire, notaio, lei non ci vuole dire la banca, ma almeno su che tipo di mutuo è applicata un'assicurazione del genere? 12.000 euro per un ammontare di che tipo e una durata di che tipo? 10.000 euro, quindi lei può immaginare che razza di peso poi questa assicurazione ha. No. Allora, nel contratto la banca fa scrivere che l'assicurazione gliel'ha chiesta il cliente, può immaginarsi, sono i famosi contratti per adesione, prendere o lasciare. Allora, l'ABI sta lavorando tantissimo su questo e poi noi, come dire, segnaleremo questi episodi. Ma tanto per dire che il cliente, ragionando con noi, può avere un panorama della situazione, può capire che cosa vuol dire per esempio l'indicatore sintetico di costo, di come l'indicatore sintetico di costo, se è molto vicino al tasso, dimostra che le spese di ingresso e le spese aggiuntive sono relativamente contenute e questo è a suo vantaggio. Dopodiché noi non siamo degli esperti finanziari, però una serie di questioni di tipo giuridico e anche la differenza tra un tasso variabile e un tasso fisso, dove evidentemente è più utile avere il consulente della banca che spiega le varie situazioni, però in linea di massima, se io voglio avere una sicurezza assoluta di avere la certezza di poter pagare quella rata, mi conviene il fisso. Può anche darsi che nel lungo periodo paghi di più, ma almeno ho quella certezza psicologica. E infatti questo tra l'altro è un aspetto molto importante, notaio, perché come sappiamo bene adesso, date le intenzioni del governo di intervenire ancora a sostegno dei sottoscrittori di mutui a tasso variabile, si è aperta anche la polemica di chi invece ha sottoscritto in passato mutui a tasso fisso e quindi si sta aprendo anche, insomma, questo versante di protesta, perché chi ha questo mutuo dice, ma insomma, perché il governo non aiuta anche noi che abbiamo sottoscritto il mutuo a tasso ben più alto, molto alto, insomma. Ma a parte questo, sul quale magari avremo occasione di tornare nel corso della trasmissione, siccome non sono stata molto carina con Massimo Roccia, gli ho fatto aprire la trasmissione tutta in salita con l'ascoltatore che ha il problema con il mutuo cartolarizzato, problematica ancora aperta per molti, per la verità. Roccia, le volevo far rispondere al notaio Piccoli magari sul caso che lui ha citato e poi ovviamente le vorrei far anche presentare l'iniziativa Cambio Mutuo di Patti Chiari. Sì, rispondo. Certamente i clienti sanno, ma se non lo sanno glielo ricordiamo, che la polizza obbligatoria come collegamento al mutuo è soltanto quella che garantisce, si dice scoppio incendio, che garantisce il bene dato in garanzia, questo è addirittura determinato da delle norme di vigilanza, mentre non è obbligatoria la polizza che riguarda la vita del mutuatario e che quindi si chiama creditor protection, significa sta proteggendo il creditore sui flussi di rimborso del mutuo. Quindi se un cliente trova non conveniente per lui assicurare una cosa del genere, può non farlo, mentre deve assicurare il bene dato in garanzia. E dal punto di vista del lavoro che si sta facendo, che molto spesso queste cose si scoprono a ridosso del rogito, dottor, sì, Roccia, quando magari siamo più in difficoltà Piccoli a fare marcia indietro, Sono d'accordo con il Presidente Piccoli, sta facendo un enorme lavoro anche sul territorio, cercando di vedere insieme i casi dove c'è bisogno di maggiore informativa e così via, per avere un monitoraggio preciso delle eventuali criticità del mercato. Quello che è molto importante è che i clienti abbiano un momento di attenzione e di consapevolezza prima di andare dal notaio, quindi possano informarsi bene sulle alternative tra fisso e variabile. C'è stato un articolo egregio su Plus scorso proprio di Maximilian Cellini, quindi gli faccio un complimento perché ha spiegato in modo esemplare la chiarezza della scelta, ovvero andare su un tasso fisso significa forse rischiare un pochettino che di non godere di una discesa dei tassi, ma dormire tranquilli la notte perché la rata è fissa. Andare su un tasso variabile significa godere in alcune congiunture di mercato della discesa dei tassi, ma non avere la garanzia che la rata sarà sempre di quell'importo in futuro. Il mutuo non si deve sottoscrivere ricorrendo i tassi di mercato, si deve sottoscrivere a seconda delle esigenze emotive e reddituali che si hanno, quindi a seconda della nostra propensione a rischio, a risparmio e quant'altro. Certo, quello è anche un elemento da tenere in considerazione a seconda della fase economica anche che stiamo vivendo, però non può essere il primo parametro da tenere in considerazione. Su questo credo che siamo tutti d'accordo in questo parterre questa mattina. Prima di andare avanti, tra l'altro tra un minuto devo dare la linea al giornale radio, vorrei partire anche con le chiamate dei nostri ascoltatori. Rocco da Modena, perché anche questo è un caso che ci interessa approfondire. Rocco, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i suoi ospiti. Dunque, io ho questo tipo di problema. La banca, su mia richiesta, mi ha inviato una proposta di rinegoziazione del mutuo che prevede un tasso fisso con spread dello 0,9% e conseguente riduzione del periodo di ammortamento di 5 anni. Nella stessa proposta, però, la banca ci tiene a farmi sapere che queste condizioni non saranno più negoziabili in futuro. Ma come mai glielo riducono di 5 anni? Mi scusi, Rocco, ma lei abbatte un po' il mutuo? Sì, abbatte un po' il mutuo. Ah, ecco, riesce a dare un po' di liquidità, perché sennò non capivo come fosse possibile. E la mia domanda era questa: è regolare inserire una clausola del genere in fase di rinegoziazione? E anche, volevo chiedere, posso comunque surrogare il mutuo in futuro con un altro istituto di credito? Rocco, la ringrazio. Il mercato si è completamente aperto da 2 anni a questa parte. C'è molto lavoro ancora da fare, ma credo che a questo punto molte resistenze siano state abbattute. Salva Danaio. Ancora a mutui a 360 gradi, questa mattina a Salvadanaio con Maximiliano Cellino di Plus 24 del Sole 24 Ore, Massimo Roccia, segretario del consorzio Patti Chiari, e Paolo Piccoli, presidente del Consiglio Nazionale del Notariato. Rocco da Modena ci aveva chiesto, ha abbattuto il suo mutuo, per cui la banca gli ha fatto una proposta, ovviamente per l'importo residuo che, di cui andava costituito il piano di ammortamento, uno spread da 0,90%, il mutuo si è ridotto di 5 anni. Dopo questa prima rinegoziazione la banca gli dice: non te ne permetterò altre. Maximilian Cellino, Rocco, diciamo, insomma, è corretta questa indicazione che mi dà la banca? Beh, se la banca gliel'ha detto, allora, in maniera del tutto trasparente. È bene ricordare che la rinegoziazione, stiamo parlando, attenzione, di rinegoziazione con la stessa banca, non la surroga. La rinegoziazione è una facoltà che concede la banca. Il contratto c'era già, era già stato siglato, e quindi è la banca che lo fa per venire giustamente incontro anche al risparmiatore. E quindi in questo caso la banca ha formalizzato il suo no per il resto del piano di ammortamento. Io almeno la intendo in questa maniera. Magari si può anche questionare sul fatto, perché sui motivi per cui abbia non sia più disponibile a riaprire, perché in realtà la rinegoziazione non è soltanto un favore che si fa al cliente. Rinegoziando i termini di un mutuo, in realtà la banca fa in parte anche il suo interesse, perché va incontro al cliente, e in questa maniera può migliorare la situazione del cliente e ovviamente migliorare anche la propria situazione, perché ovviamente la banca si attende che il cliente gli renda i soldi e che il cliente vada tutto bene. Altra cosa, mi sembra che stesse parlando della surroga, ovviamente nulla osta ad effettuare una o più surroghe in futuro, si vanno a cercare altre banche. Sentiamo Massimo Roccia anche su questi aspetti. Certo, la banca gli ha detto: per adesso io ti dico che non vorrei rinegoziartelo più, poi magari fra 5 anni esplode di nuovo il petrolio, ci riporta i tassi alle stelle, si riapre un altro dibattito nazionale, Roccia lì a quel punto anche quella banca forse... Rocco ha un bel fisso, però mi sembra sì. Sia andato a contattare un bel fisso, sai che mi non sembra ho fatto di caso. Ricordare che lui ha detto uno spread di un 0,9 su un fisso che è abbastanza buono, sì. Roccia. Sì, completo un po' l'affermazione di prima. La rinegoziazione è un atto negoziale bilaterale che si basa sulla volontà delle parti, quindi della banca e del cliente. La banca è stata forse molto trasparente dicendo: oggi ho la volontà di rinegoziare, ma ti dico che su questa operazione in futuro non voglio più rinegoziare. La banca glielo dice per un fatto semplice, perché dal lato del passivo, a fronte di quel mutuo, la banca ha un funding che, per consentire ai mutui di essere i più competitivi, quindi più convenienti possibili per il cliente, deve essere il più possibile bilanciato, quindi per scadenza, per ovviamente denominazione di valuta e così via, e per rischiosità ovviamente dell'operazione. Tant'è vero che quando si cartolarizza si cerca di fare dei pacchetti perfetti per metterli sul mercato. La banca gli ha detto: oggi ho voglia di farlo, ma in futuro potrei non aver voglia di farlo. Quello che è invece il diritto del cliente, quindi un diritto e non una facoltà, è certamente la portabilità attraverso la surroga, ma questo, ricordiamo sempre, c'è il vincolo dello stesso importo, oppure un mutuo di sostituzione, quindi andare in un'altra banca, estinguere quello precedente e riaprire un mutuo nuovo. Questi sono i diritti del cliente, quindi secondo me il cliente è andato, ha fatto l'operazione giusta, cioè è andato su un mutuo a tasso fisso con uno spread abbastanza competitivo e la banca in modo onesto, forse quasi eccessivamente onesto, gli ha detto ma su questa operazione io poi non voglio rinegoziare ancora. Infatti, una volta. Infatti, sicuramente da questo punto di vista sorprese non se ne trova, Rocco lo sa sin dall'inizio. E per tutti gli aspetti legati peraltro alla sostituzione e alla surroga, volevo ricordare appunto la guida di Patti Chiari, cambio mutuo, che è già online sul sito dell'associazione. Giorgio da Verona, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno ai suoi ospiti. Ci dica tutto. Sarò brevissimo. Dunque, abbiamo acquistato casa quest'estate, dovevamo rogitare verso ottobre, poi le solite lungaggini delle imprese edili, rogiteremo a febbraio. Ora, io mi ero già mosso a settembre per avere un po' il punto della situazione, per capire come sarebbe stato meglio muovermi. Tendenzialmente io sono un prudente, quindi mi sarei mosso su un fisso. Sì. Che ero riuscito a strappare a un tasso dello 0,8-0,9 come spread. Sì. Scusi, 0,8-0,85. Mentre il variabile me lo proponevano circa un decimo di punto in più, quindi uno 0,90-0,95 di spread. Adesso però è da qualche settimana, se non giorno, che si sente parlare di tagli della Fed, della BCE, eccetera. Volevo capire quanto cambierà lo scenario a febbraio, quando effettivamente mi partirà il mutuo. E secondo lei, Giorgio, se noi lo sapessimo staremmo qua, io e Maximilian Cellino avremmo aperto una bella tenda mettendoci il cappello da mago sulla testa e staremmo qua a fare previsioni sui tassi per tutti. Non voglio prenderla in giro, Giorgio, no, però la sua considerazione è ragionevole. I tassi stanno scendendo da qui a febbraio sicuramente. Il problema però, Maximiliano, dobbiamo anche dire che le banche stanno adeguando gli spread. Non vorrei che, ritardando di due mesi magari un preammortamento con la banca, si trovasse una sorpresa di uno spread più alto, il nostro ascoltatore. Allora, alcune considerazioni prima di tutto. Mi sembra che abbia detto io sono un prudente. Sì, e questa è una cosa fondamentale che lei ha detto. Perché se lei mi dice che è un prudente, adesso mi sta guardando i tassi di interesse, i fissi che scendono, scusate, i variabili Euribor, i variabili che scendono e cosa faranno in futuro. Lei ha detto che è un prudente, quindi la sua scelta sembrerebbe più orientarsi verso la certezza, verso un tasso fisso. È chiaro che nel breve i variabili saranno molto più bassi, gli Euribor stanno scendendo, ma è anche chiaro che in un medio e lungo termine vorrebbero tornare a risalire. Ricordo, lei ha detto che è un prudente. Detto questo, Lei mi sembra abbia fissato già un parametro interessante, che è uno spread, tra l'altro anche abbastanza interessante su un tasso fisso. Quello che vorrei chiederle è, e che lei deve capire, è se ha fissato anche la base di calcolo del parametro. Mi spiego meglio. I tassi fissi, e questo magari non tutti se lo ricordano, non si basano sui tassi Euribor, ma su altri tassi che sono a medio e lungo termine, si chiamano IRS. Uno lo sceglie una volta per tutte. All'inizio faccio un caso, in questo momento uno fa un mutuo a 20 anni, oggi l'IRS a 20 anni è al 4,07%, ci aggiunge uno spread, mi sembrava dal 0,80%, sì, esatto. Lei pagherà sempre una rata con al un tasso fisso al 4,87%, mi sembrava fosse 0,80, 4,07, insomma sì. Non lo so, quello è l'ordine idea. Comunque inferiore, insomma, al 5%, che non è male. Però ecco, la domanda che le volevo fare io, e lei si accerti questo, negli accordi che aveva con la sua banca, non vorrei che lei avesse già fissato l'IRS, perché se lei ha fissato l'IRS ai livelli di settembre, ecco, questo tasso qui a livelli di settembre era ben più alto. Era più alto e io non ricordo adesso a memoria, ma è molto, sicuramente molto vicino al 5%, e lei si troverebbe a fare un tasso fisso che è ben più vicino al 6%. Anziché sotto il 5%. È chiaro che la convenienza sarebbe diversa, perché lei, ricordo, il tasso fisso se lo porta avanti per tutta la durata del mutuo. A meno che in cambio non della certezza, della serenità emotiva e di nessuna oscillazione appunto della rata che ci manda per aria il bilancio familiare. Quindi, per concludere il discorso, un tasso fisso fatto a settembre non è la stessa cosa di un tasso fisso fatto adesso e non sarà probabilmente la stessa cosa di un tasso fisso a febbraio. Sapere qual è il valore più basso, questo giustamente, come diceva Deborah prima, ci vuole probabilmente la sfera di cristallo. Però la cosa da dire è che a settembre sicuramente i tassi erano molto molto più alti. Quindi comunque, se vuole il fisso, può andare in banca adesso e tentare di capire se può rinegoziare. Non dico rinegoziare, no, deve essere chiaro, deve essere chiaro, esatto. Deve essere chiaro lo spread, e questo mi sembra che lei lo abbia chiaro, ma anche il momento in cui verrà fissato una volta per tutte il suo tasso, diverso dal tasso variabile, perché quello lei lo può fissare anche adesso, ma tanto ogni mese le cambia, per cui. No, volevo sentire tra l'altro il notaio Piccoli su questi aspetti, perché c'è chi magari trova la casa della sua vita e la compra nel giro di un mese, notaio. In casi differenti, come quello per esempio del nostro ascoltatore, evidentemente una casa in costruzione, posso fermare la casa un anno prima poi del rogito effettivo che mi dà diritto appunto alla proprietà definitiva e formale. In questi mesi, come giustamente è accaduto, anche come è accaduto anche nel caso che il nostro ascoltatore ci ha appunto raccontato, i tassi di mercato sono cambiati, le condizioni di mercato sono cambiate, per cui mi chiedo, da settembre, da quando il nostro ascoltatore ha cominciato a guardarsi intorno nel mondo bancario per intercettare l'offerta che potesse fare al suo caso, a febbraio, fino a quando appunto andrà a rogitare, le cose cambiano, ma secondo lei cosa valeva la pena mettere, così, mettere qualche punto fermo con la banca? Lei che indicazione avrebbe dato al nostro ascoltatore? No, ma credo le cose che ha detto Cellino siano assolutamente perfette, nel senso che poi normalmente il mutuo viene effettuato nel momento in cui si fa il rogito definitivo e in generale l'acquirente nel periodo, diciamo, intermedio, quando c'è il preliminare, si aspetta la conclusione della costruzione dell'immobile oppure passa qualche mese perché il venditore magari dell'immobile finito ha bisogno di fare a sua volta delle altre scelte per trasferirsi, si fanno dei pagamenti o degli anticipi di pagamento, delle caparre o degli anticipi di pagamento con dei mezzi provvisori o con dei prefinanziamenti, quindi il mutuo vero e proprio normalmente si fa nel momento in cui si fa il rogito definitivo, quindi è lì che diventa decisivo se il tasso è fisso, stabilire qual è il tasso di riferimento, perché se io ho fatto degli accordi con la banca mesi prima, in un momento in cui i tassi sono calanti, è chiaro che mi metto in una situazione svantaggiosa. Come voi sapete, la possibilità di detrarre gli interessi e le spese legate al mutuo per l'acquisto di una prima abitazione si possono fare sia con un mutuo fatto un anno prima, cioè entro un anno prima dell'acquisto della casa o dopo l'acquisto della casa, se è una prima abitazione, ma io di mutui fatti prima dell'acquisto della casa ne vedo uno su un milione, perché a quel punto il mutuo dovrebbe avere un terzo datore di ipoteca che è il venditore, il quale ancora non ha effettuato la vendita, quindi normalmente la conclusione del contratto e quindi la fissazione dei parametri e quindi delle condizioni avviene nel momento in cui si fa il rogito, avverrà 15 giorni prima, 20 giorni prima, quando la banca fa le sue delibere, insomma. E insomma, tutto questo ci dà modo ancora una volta di confermare quanti aspetti dobbiamo tenere e prestare attenzione quando ci avviciniamo ad un passo così importante per la nostra vita. E sicuramente quello che è accaduto negli ultimi due anni nel mercato e dal punto di vista legislativo nel nostro paese ci ha insegnato molto. Quindi massima attenzione, non correte dietro solo al tasso, ma soprattutto cercate di capire qual è la soluzione migliore per le vostre coronarie. Salva Danaio. Purtroppo è caduto il nostro ascoltatore che voleva raccontarci che per la stipula di un mutuo, credo qualcosa da 103.000 euro, gli avessero imposto una polizza agganciata da 19.000 euro. Adesso infatti purtroppo è caduto, perché avrei voluto sentirlo molto volentieri questo caso. Non ce l'abbiamo più, andiamo avanti con altre considerazioni. Prima però in realtà con Maximilian ci stavamo interrogando effettivamente su che tipo di negoziazione o comunque di accordo si può firmare con una banca, se forse su questo non siamo stati molto esaurienti, se appunto se prima di andare a rogito intercorrono molti mesi da quando abbiamo fermato una casa, da quando ci siamo, come dire, guardati intorno nel sistema bancario per capire qual è il mutuo che fa al caso nostro. Roccia, lei ci può dare un'indicazione su questo? Senz'altro, innanzitutto dico che queste domande confermano ancora di più l'opportunità di aver lanciato questa terza edizione di Porta Aperta a Patti Chiari con 9 associazioni dei consumatori che daranno ai clienti questa guida cambio mutuo, come gestire al meglio il proprio mutuo in 90 sedi in Italia. Rispetto alla domanda dico che generalmente, come ha detto un istante fa il Presidente Piccoli, si determina il tasso insieme alla delibera che la banca fa con il rischio. Quindi quando il cliente va in banca e propone o chiede alla banca una certa operazione, la banca studia l'operazione e fissa un tasso in funzione del rischio del cliente. Quando delibera l'operazione, delibera sia l'assunzione del rischio che il tasso. In un momento come questo, credo che un cliente prudente faccia gola a molte banche, e quindi io gli consiglio di andare sul sito delle stesse banche oppure su un sito comparativo che già esiste e sentire 4-5 offerte, ma può anche prendersi qualche altra settimana, perché ormai i tempi di delibera sono molto ristretti. Su un mutuo normale non si superano le 4-5 settimane, e quindi lui può aspettare e vedere in questo mese che ancora c'è davanti se i tassi scendono. Certamente un bisogna tasso vedere fisso, anche se l'IBA per una casa in costruzione, se fa un accollo di mutuo, magari la banca è già stata predeterminata dal costruttore, forse nel caso dell'ascoltatore che ci aveva chiamato magari c'era una questione differente, ma a parte questo, ammettendo che non sia così, Roccia, quindi lui può, possono può cambiare in corsa le condizioni. E credo che comunque, come diceva anche prima Piccoli, avere un tasso fisso sotto al 5 sia un ottimo modo di essere tranquilli su un tasso competitivo. Ricordo che noi siamo stati sempre molto prudenti in passato, quando si diceva ma è molto meglio il tasso fisso perché il tasso saliva, siamo prudenti anche oggi quando il tasso variabile scende. Quindi va fatto sulle proprie esigenze, confrontando quant'è l'impatto della rata rispetto al proprio reddito. Se c'è una capienza enorme ci si può permettere qualche piccolo rischio di più perché cercando una convenienza maggiore, ma se invece l'impatto è abbastanza significativo, cioè intorno al 30%, io credo che sia molto più conveniente per il cliente essere tranquillo di qual è appunto il peso di questa rata nel tempo. Alex da Padova, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie Alex. Vi dico subito, allora nel 2005 ho fatto un mutuo che dopo un anno di guerra con la mia banca ho provato a rinegoziare. Sì. Praticamente l'ho portato a un 5 di fisso. Sì. Al 5 di fisso mi hanno fatto da 1,80 di spread a 1,30, non è tanto buono di spread, ma comunque... Beh, intanto comunque le hanno fatto uno sconto come prima mossa, mezzo punto, un po' le sono venuti incontro. Sì, adesso. Ma mi capisci che ho provato da un anno, da febbraio dell'anno di questo anno, e praticamente mi hanno fatto all'inizio 0,20 di spread più basso, da 1,80, 1,60, non l'ho accettato. Sono andato in giro per le banche, ho chiesto estinzione del mutuo, quando hanno visto estinzione del mutuo... mi hanno chiamato entro 24 ore e mi hanno fatto una proposta da 1,30 di spread, che è questo. Dinamiche che conosciamo bene, Alex. Sì, grazie a voi a Radio 24 e a Mutuo Online che mi avete guidato. Alla fine mi hanno fatto 1,30 più 4,15 di IRS di settembre. Non l'ho accettata neanche quella, però ho trovato una signorina in banca lì, che non so se dare il nome o no alla no banca. Vabbè, ma non importa, comunque alla fine Alex che cosa è riuscito a spuntare? Un 3,70 di IRS più 1,30 di spread a 30 anni. Benissimo, è contento adesso, è più sereno Alex oppure ancora non si accontenta? Non sono contento per il discorso che questa banca mi ha fatto 3,70 di IRS di primo di dicembre, che su Mutuo Online aggiornato al primo di dicembre IRS era 3,47. Può toccare la banca IRS? Ah, bella domanda questa, Maximilian, questa non ti era mai capitata? No, in questi termini no, poi bisogna vedere che cosa ha deciso, su quale parametro ha deciso la banca di calcolare. Perché ci sono anche più No, su quale giorno giustamente. Il primo dicembre qual è il lui diceva, lui diceva però, anche se la banca... Bisogna vedere sul contratto che cosa è scritto. Se è scritto il primo giorno del mese, se è scritto quel tal dei tali, io credo poi il notaio potrà venirmi in aiuto, ma secondo me se è scritto l'IRS di quel giorno, preso sul Sole 24 Ore di solito, denaro, lettera, base 365, arrotondato a 0,05 superiori, magari, perché poi non è sempre abbastanza complicato, bisogna calcolare se è 3,70 o se è 3,47. Questo io non lo so, bisogna proprio vedere. Però la cosa importante è che sul contratto c'è scritto quale IRS è preso. È ovvio che se lei si accorge che non è quello lì, il contratto qui appunto può iniziare il notaio. Però attenzione prima di dire che non è quell'IRS lì, perché bisogna proprio accertarsene. Esatto, no, tra l'altro, adesso rivolgiamo questa domanda al notaio Piccoli, poi magari sentiamo anche Massimo Roccia, però so che tu avevi anche un'altra domanda per il notaio Piccoli, perché notaio Maximilian Cellino, dietro con la faccia da angelo che ha, è una piccola ienetta, voleva chiederle una cosa sulle tariffe praticate. No, non è questione di essere iene, però è ovvio che, diceva in precedenza anche notaio Piccoli, che la rinegoziazione con la stessa banca ha costo zero, la surroga, la portabilità ha un determinato costo, la sostituzione ha un costo differente. Non c'è molta chiarezza su questi tipi di costi. Io scrivendo davo delle cifre indicative, quello che volevo chiederle, è possibile individuare dei range almeno? Dei range, eh. Oppure capire se esiste una tariffa vera e propria, una tariffa massima anche indicata da certo, tenendo conto che poi ognuno provincia. Ha una situazione differente e quindi pratiche che vanno istruite con tempi differenti, esatto, probabilmente. Tenendo conto che ogni mutuo probabilmente fa storia a sé anche certo. sui costi, però c'è un certo raggio in cui uno... No, ma Maximina, sai che abbiamo finito il tempo a nostra disposizione? Scusa. Salvadanaio deve terminare. Notaio Piccoli, in 10 secondi sulla questione delle tariffe e poi mi abbattono sicuramente. Esattamente. Rinegoziazione, nessuna spesa. Mutuo di surrogazione, nessuna spesa per il cliente perché le commissioni sono a carico della banca. Il mutuo di sostituzione è un mutuo normale. Le tariffe sono stabilite dal Ministero della Giustizia. Noi abbiamo messo delle tariffe indicative su internet, sul nostro sito www.notariato.it, però non possiamo noi come Consiglio Nazionale dire la tariffa è questa perché l'antitrust ci bastona immediatamente. Grazie Notaio Piccoli. Grazie a Massimo Roccia, Maximilian Cellino, scusate, ritorniamo prossimamente ad anno nuovo con i mutui. Buona giornata a tutti. Salva Danaio.